ammazziamo e con questo che abbiamo. Con lui ammazziamo e con questo che abbiamo. Con lui ammazziamo e con questo che abbiamo. Con lui ammazziamo e con questo che abbiamo. Con lui ammazziamo e con questo che abbiamo. Con lui ammazziamo e con questo che abbiamo. Con lui ammazziamo e con questo che abbiamo. Con lui ammazziamo e con questo che abbiamo. Con lui ammazziamo e con questo che abbiamo. Con lui ammazziamo. Segni del reato, ci capisco e due cartine per le mie sigarettine. Fermi tutti, ha detto quello, cosa fate uno spinello? Non lo sai che mo è vietato da una legge dello del fumo, è una legge dei padroni per restare più padroni. Immagino sia per quello che è successo al motel. Che è successo al motel? Ve lo dico io. Lavoravo per la sicurezza vicino alla Wisconsin. E martedì notte abbiamo sentito degli spari nella zona vicino all'Algiers. C'era la polizia. Molti spari. Quando sono entrato, c'erano tre ragazzi morti. No. E li avevano uccisi appena prima che tu arrivassi. Sì. Quella che hai tu è una 38. Giusto? Una pistola. Tu hai una pistola. Sì, ho una 38. Ma hai sparato a qualcuno? Non sono stato io. La polizia... Oh, ci siamo arrivati. Detroit è una città in guerra. Continua la violenza. Polizia dello Stato e Guardia Nazionale sono sul posto. Dichiaro lo stato d'emergenza. C'è la guerra là fuori. Distruggono la città. Polizia! Tutti a terra, non vi muovete! Do per scontato che siete tutti criminali! Ma di questo tu non parlerai mai con nessuno. È chiaro? Questa città ha dei problemi! Ma il cambiamento sta arrivando! Ti ho detto ciò che ho visto. Voglio aiutarvi. Ma il cambiamento sta arrivando! Sono dei ragazzi! Siete impazziti! Ma il cambiamento sta arrivando! Ci uccideranno. Ma il cambiamento sta arrivando! Devi sopravvivere alla notte. Sopravvivere alla notte. Dove sono i bastardi lo so, me ne accorgo è d'aperto, che con me perché mi crede lo so di certo. Vado in giro e non mi gira chi mi chiama per nome, con una pacca sulle spalle che poi dove? Sannidono merde, sannidono i vermi che fanno le gare notte e giorni solamente per vedermi steso per terra. Non dire che questa è bella, felici di tirare un colpo di rivoltella. Altrettanto è falso che pensa al suo branco, un occhio sulla strada e l'altro chi striscia a fianco. Se c'è una luce che si accende, si spegne, non la peggia su questi ma sulla faccia della mia gente. Con guinzaglio spezzato non può far di più, certo cade spesso, spesso piglia e si ritira su. La merda va nel sangue, non si sa perché, ma dietro chi c'è e dove stanno i bastardi, perché ti stanno dietro come pezzo al culo. E il foro d'acqua in mezzo taglia di netto, posto del futuro. Non piego già ma di pietà sono accorto che alle spalle dei bastardi ancora non se ne accorgo. Dove stanno i bastardi lo so, lo so, lo so. Dove stanno i bastardi lo so, so, so. Dove stanno i bastardi lo so, so, dove stanno i bastardi lo so. Non mi chiamare tranquillo perché questo è quello che penso, quel che so, so che sei morto eppure come tranquillo non sto. E domani non è un altro giorno, vado a botto ritorno mentre brucio all'inferno. Dove stanno i bastardi lo so, perciò alzo la bandana. Chi mi inquadra il suo obiettivo è quello della madama. Non ho più tempo e lo sa chi mi conosce già. Non sogno più ma non tocca della mia comunità. Ci sto e conquisto attraverso la giungla. Esco col buio perché so che lì disturbo. Il fumo sfiato va in avanzata, sento chi mi rifiata sul collo. Il fuoco scalda chi si muove intorno. Se c'è chi registra le chiamate che faccio, l'apparecchio mio lo so e non mi faccio. No, lascio il diritto a chi ci frega perché Pio e lei se taglia. Chiamano bastarda. Dove stanno i bastardi lo so, so, so. Dove stanno i bastardi lo so, dove stanno i bastardi lo so, bastardi. Dove stanno i bastardi lo so, so. Dove stanno i bastardi lo so, so. Dove stanno i bastardi lo so, dove stanno i bastardi lo so, so. Dove stanno i bastardi lo so. Troppi infami per la mia strada. E quante strade per scappare ci stanno? Non lo so. Ma i bastardi ti stanno dietro e colpisce alle spalle. E dove stanno i bastardi? Avanti! Guardate, dai! Dai! Tu! Dai, serrate, state sotto! Cazzo fai, tieni giù sta testa, dai! Stai giù, stai giù, state sotto! Guarda giù! Cazzo fai, posso, vieni lì! Go! documenti. Scusi, posso sapere perché sono stato arrestato? Si spogli e mette gli oggetti personali sulla scrivania. Dai giù, sto! Ciao. Ci divertiamo stasera io e te, eh? Aspetta! Dai giù! Schifo! Schifo! Va via! Ciao, sai! Quanti ci dobbiamo restare qua? Senta, Yakia, ha visto quanti ce ne sono fuori? Se spogli non faccio domande inutili. Togliere anche... Senta, ma che domande del cazzo mi fa? Si levi la collanina e la metta qua sulla scrivania insieme al resto. Ed ospedale, son morti per la strada all'autogrill, il braccio armato dello Stato infame, senza vergognarsi l'ha lasciati là. Erano poco più che ragazzini, erano tutti figli come noi, ci hanno lasciato tanto da lottare, le lacrime di ieri sono rimaste qua. Figli di questa Italia maledetta, figli di questi anni amari e buoni, e chi pulì quel sangue in tutta fretta, quei bei sorrisi non cancellerà, e la faranno franca come sempre. Lo porterà la gente sulle spalle, a monito del tempo che verrà, e se ritornerà la bestia umana, la gente tutta unita la combatterà. Sono morti massacrati dalle botte, un colpo in testa li ha lasciati là. Il sangue l'ha riuniti nella pace, son morti dentro al fiore dell'età. Figli di questa Italia maledetta, figli di questi anni amari e bui, e chi pulì quel sangue in tutta fretta, quei bei sorrisi non cancellerà, e la faranno franca come sempre. Certo, ammazza, voi guardi, ve ne siete accorti subito. Invece il giudice e il pubblico ministero proprio non ci hanno fatto caso. Spoglia del fame a piegamento, dai. Non ci riesco, mi fa male la schiena. Ti fa male la schiena? Tirate un po' sul maglione. Pensa quanto sei magro, ma magni ogni tanto di... Magno sì, magno. Ci sto attento perché faccio il pugilato. Che fai il pugilato? Girati, no? Ma conviene che lo lasci perdere il pugilato, perché è una roba per te. Va a finire che ti fa male, guarda come ti sei ridotto. Chi ti ha detto che questi lividi mi sono fatti in palestra? Io non ho detto. Sono regalo dei carabinieri, sti lividi. Queste sono accuse gravi. Come botte mi hanno dato. E io che ne so che mi stai a dire la verità. Ecco qua la verità. Ma che significa? Questo può essere stato chiunque. E invece no, sono stati loro. Sono stati loro, i carabinieri mi hanno gonfiato de botte. Sono andato lungo per terra, mi hanno riempito di carci, manco le manette mi hanno levato. Ma se ci lo crede bene, se non fa come te pare. Adesso datta una calmata e metto da sede. A sede. Oh, so io. Sì, senti, qua c'ho un ragazzo. Aspetta un attimo. Come ti chiami? Stefano Cucchi. Si chiama Cucchi Stefano. Ti volevo chiedere, non è che per caso abbiamo un certificato medico? Che questo sta tutto visto? Ah, ci sta? Perfetto. No, che se no qui va a finire che ce l'ho da mezzo io. Sto sveglio presto prima del canto del gallo. Voglio guardare un altro Giuda mentre cade in fallo. La testa piena con la rabbia che mi porta al largo, in mezzo a un mare di domande che non mi dà scampo. Odio il giornale ma non posso farne a meno. Oggi il titolo mi chioda gli occhi su quello che vedo. Testata riporta sull'argomento principale. Stefano Cucchi viene ammazzato come un cane. 20 grammi per morire senza andare in ospedale. Dentro un carcere normale ma con carcere speciale. Con i segni sopra il corpo di un pestaggio militare. Senza una speranza a fianco, una madre da abbracciare. Senza alcuna spiegazione ufficiale, nessun comunicato. Solo silenzio e bugie da parte dello Stato. Dove? Nella bella Italia. Dove? Nella sporca Italia. Lo sbirro ti assassina e sputa sopra la tua bara. Non ci credere quando ti dicono che è tutto a posto. Non c'è niente di a posto, solo tutto nascosto. Non mi chiedere fiducia perché chi l'ha fatto è morto. È per questo che non stringo la mano ad un poliziotto. Non ci credere quando ti dicono tutto bene, che la colpa non è loro, che fanno il loro dovere. Chi sbaglia non paga mai, se giura per il mestiere. Mestiere di merda, carabiniere. Fido di chi non condanna l'arma per rispetto. Dei colpevoli assolti dopo l'ennesimo processo. Capo della polizia viene assolto col collega dal massacro della DIA. Ricordi gelano il sangue come fosse sotto zero. Mentre ripercorro rapido le immagini all'indietro, rivedo le loro facce divise sporche di sangue. Le tracce di una violenza gratuita come una strage. E dopo Carlo, Aldo, Federico e Gabbo, ammazzati come cani dalla polizia di Stato. Nessuno ha pagato, tutto rimane com'era. Per questo infame manco un solo giorno di galera. Oggi Stefano va via, chiuso in una busta nera, senza avere manco il tempo per un'ultima preghiera. E non importa la tua vita, non importano i tuoi anni. La morte pesa solamente 20 grammi. Tu non ci credere quando ti dicono che è tutto a posto. Non c'è niente di a posto, solo tutto nascosto. Non mi chiedere fiducia perché chi l'ha fatto è morto. È per questo che non stringo la mano ad un poliziotto. Non ci credere quando ti dicono che va tutto bene, che la colpa non è loro, che fanno il loro dovere. Chi sbaglia non paga mai, se giura per il mestiere. Mestiere di merda, carabiniere. Sarà un'altra cosa, sarà un'altra cosa, sarà un'altra cosa, sarà un'altra cosa, sarà un'altra cosa.

and this is what I'll say. Fuck the police. Jurious finds you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Hey, that's a lie! That's a goddamn lie! Get him out of here!